9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 6 di luglio. Vado direttamente alla lettura di alcuni titoli dei giornali di oggi per capire perché abbiamo a nostra volta deciso di mettere questo titolo. Lo ammetto, un po' diretto, è che per le responsabilità istituzionali del presidente della Camera Gianfranco Fini è un po' irrituale, io me ne devo anche scusare, perché il titolo della trasmissione di oggi è Gianfranco Fini, traditore o salvatore. Però io i titoli dei giornali che vi leggo, per capire che non veniamo dalla luna e quindi non forziamo noi certo i toni, sono questi. Giornale di oggi: fuori Brancher, poi tocca a Fini, in rosso la resa dei conti. Titolo del giornale, sempre quotidiano, diretto da Vittorio Feltri, di ieri: rischio ribaltoni, Fini, leader della congiura. Il presidente della Camera pronto alla grande ammucchiata con Di Pietro e Bersani pur di mandare a casa il premier, che però è deciso a dargli scacco matto già nei prossimi giorni. Ce la può fare, basta che non ascolti le solite colombe. A questo punto, se vado a vedere il titolo di Libero, quotidiano diretto da Belpietro di oggi, è la doppietta di Silvio: risolto il caso Brancher, mette la fiducia sulla manovra, Gianfranco non mi serve per governare. I CAV: vado alla fonte, alla conta, scusatemi, Fini, anche se mi spari, e il seguito è: dovete sparare. Perché col giornale avevo premuto un pulsante, scusatemi, il titolo che si legge a pagina 4 è: dovete spararmi, attribuito virgolettato al presidente della Camera. Leggo il catenaccio sotto: Gianfranco Fini reagisce al diktat di Berlusconi, governo senza di lui, ci cacceranno solo facendo una follia, deciso lo stop alle polemiche in attesa delle mosse del Cavaliere, ma dopo l'addio di Brancher prevale la voglia di trovare un'intesa. Quindi, secondo Libero, ci sarebbe invece una tendenza a trovare l'intesa. Mi pare che secondo il giornale invece no. Andiamo a quotidiani indipendenti. La Stampa: i finiani temono che il Cavaliere lanci il predellino 2, si legge sulla Stampa, con una intervista poi a Follini. Attento Gianfranco ai rischi dell'addio. Follini, diciamo, che ha pagato un prezzo abbastanza amaro all'estremozione dell'UDC nel PD. Il titolo che regge il ragionamento su questo timore dei finiani sul Cavaliere che lancerebbe il predellino 2, attribuito dalla Stampa, è che Berlusconi ora è convinto di avere ben disposto il colle, e quindi, diciamo, la Stampa è su una posizione un pochino meno carica di tritolo, no? Il Corriere della Sera invece spinge, o per meglio dire, descrive uno scenario in cui il terzo polo prende forza da questo braccio di ferro tra Berlusconi, a cui è attribuito l'intento di sciogliere il nodo dei Fini, e Fini, perché il titolo del Corriere della Sera è: il doppio affondo di Berlusconi, patto con Tremonti risolto la Grana Banca, resta il nodo del rapporto con Fini. Ma poi, nel dar conto dell'articolazione interna dei ex Alleanza Nazionale e dei sostenitori di Fini, il Corriere della Sera dà molto rilievo al terzo polo. Urso vuole la pace, Granata la separazione, Bocchino non esclude il terzo polo. Poi si gira pagina e c'è un'altra intervista, a questo caso di Francesco Rutelli, che regge a propria volta, dà forza, vigore all'ipotesi del terzo polo, che piace al Corriere della Sera, quindi che mette molto vento in questa vela. E Rutelli apre una pagina con un titolo che dice: sì, è l'ora del terzo polo, Fini si sta muovendo bene. Ora, è chiaro che Repubblica, la cito appena perché è ovvio che Repubblica dà un punto di vista molto avverso a Berlusconi, e parla di campagna acquisti del Cavaliere, 12 nomi da sfilare a Gianfranco, Granata, Urso e Sbai nella lista preparata dalla Russa, i finiani avvertono, non ci cacceranno dal PDL. Questo per dire che questo c'è sulla Stampa, e quindi non me lo invento io. E di fronte a questo, un'altra testimonianza, per chi se lo fosse dimenticato, dalla direzione PDL di aprile. Sentiamo un minuto preciso che secondo me dà già ben allora i tempi, i modi e i toni del confronto tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi. Dire che su alcune vicende, su alcuni problemi, su alcune cose da fare abbiamo delle opinioni diverse è dimostrazione di alto tradimento, a tal punto da meritare appunto delle bastonature mediatiche o da meritare l'allestimento di roghi o addirittura ipotizzare i licenziamenti come avviene per i dipendenti infedeli, oppure è una dimostrazione di lealtà. Vedi, il tradimento allinea spesso in coloro che sono adusi all'applauso e in molti casi alla critica approvazione, salvo poi, quando i leader girano le spalle, dire tutt'altro. Raramente il tradimento è nella coscienza di chi si assume la responsabilità in pubblico e in privato di insistere su alcune questioni. Io lo considero un fatto di lealtà ai... Presidente, a me cose che non ho mai detto. Hai il diritto di replica. Ne prendo atto positivamente. Comunque, avendo un diritto di replica di cui giustamente ti devi avvalere. Ecco, come si è visto, insomma, i toni erano accesi e i termini erano esattamente questi che sono rimasti: traditore o non traditore. Allora, iniziamo a sentire le parti in causa, per così dire, da una parte in causa più diretta, perché abbiamo Flavia Perina, che è direttore del Secolo d'Italia, deputata del PDL, mai fatto mistero di essere molto vicino al presidente della Camera. Buongiorno Flavia Perina. A voi. E poi Alessandro Sallusti, vigoroso, diciamo così, partner, braccio destro di Vittorio Feltri al giornale, condirettore del giornale. Buongiorno Alessandro Sallusti. Buongiorno a voi. Io comincerei da Flavia Perina più che da, diciamo, da coloro che attaccano molto, come sono i colleghi del giornale, chiedendo a Flavia Perini, che ha anche aperto, secondo te, in questi ultimi giorni a ricostruzioni anche di organi interni, si parla del patrimonio del partito, di difendere la tutela del patrimonio del partito, che come sempre nelle vicende in cui ci sono aggregazioni è stato messo per una parte in sicurezza, ma questo lo capisco bene avendo anch'io un vecchio passato di partito, però ha iniziato a dare anche conto sul Secolo di come qualcuno abbia tentato di metterci le mani sopra, per così dire, no? Allora, quando si arriva a questo vuol dire che siamo non più a una banale o seria, ma insomma polemica che non può portare rotture. Questa volta il rischio di rottura c'è davvero. E qual è l'opinione di Flavia Perina? Ma guarda, avete fatto molto bene a mandare in onda questo spezzone del dibattito del 22 aprile, perché i problemi con i quali si deve confrontare il PDL oggi sono esattamente gli stessi che sono stati pubblicamente e politicamente posti in una sede di partito il 22 aprile, e cioè i diritti della minoranza interna a esprimere le sue opinioni senza essere accusata di alto tradimento e tutta una serie di difficoltà politiche che in qualche modo erano state previste nel rapporto con la Lega, nel rapporto con la crisi economica, che erano state anche oggetto di quel dibattito e che là furono liquidate come questioni pretestuose dal documento finale. Mentre oggi ci rendiamo conto, insomma, io do una lettura molto semplice dei fatti di oggi: le vere difficoltà di Silvio Berlusconi negli ultimi due mesi, come dimostrano il caso Brancher, il caso Scajola e i problemi sulla manovra economica, sono state in realtà con Umberto Bossi, con il ministro Tremonti e in gran parte con il Quirinale. Poi, come spesso avviene in politica, si cerca una sorta di capro espiatorio, quindi il problema è il controcanto finiano, no, ci sono delle questioni più importanti e più rilevanti nelle quali ci si è impigliati, le dimissioni anche di Brancarieri, insomma, parlano chiaro sulla lucidità con la quale si è agito negli ultimi due mesi. E quindi sono gli altri problemi e il rapporto con Fini è semplicemente la cartina di tornasole del fatto che gli si era detto ad aprile e Berlusconi ci ha dovuto per forza sbattere il muso, traduco in termini più espliciti. Ecco, terra, sì. Che dice Alessandro Sallusti invece? Da quello che si legge sul giornale, Feltri e voi siete convinti che c'è una specie di attentato alla leadership, senza riconoscere più che insomma i voti li prende Berlusconi e la sua decisione ultima su ogni questione dovrebbe aspettare il leader, o c'è altro ancora? No, io credo che se Fini avesse fatto quello che abbiamo appena sentito in quella registrazione che avete mandato in onda, non solo avrebbe fatto bene, ne avrebbe avuto tutti i diritti, addirittura credo che sarebbe stato un bene per il PDL. Il problema è che non ha fatto quello, non è stato leale. Lui dice: io sono leale, non sono un traditore. E poi i fatti hanno dimostrato una cosa diversa. Faccio un esempio. esempio concreto, perché poi le parole, ognuno può dire quello che crede, ma le parole e i fatti sono diversi. E i fatti dicono un'altra cosa. Prendiamo l'esempio delle intercettazioni, giusto, sbagliato, non è questione di merito qui. La legge sull'intercettazione viene discussa dalla direzione del PDL, dove ci sono esponenti finiani, viene approvata a unanimità, cioè nessuno eccepisce, viene approvata nella commissione parlamentare, viene approvata dall'aula parlamentare, adesso si alzano i Fignani e dicono no, ma bisogna rifare tutto. Allora questo non è essere leali e coerenti, questo è volere continuamente creare problemi e non rispettare i patti fatti all'interno del partito in maniera libera, dopo ampia discussione. Credo che quella legge abbia accolto parte dell'obiezione della componente Fignani, sia in direzione che in Parlamento, e quindi non si capisce perché a un certo punto non va più bene ciò che ti andava bene fino al giorno prima. Del resto, mi permetto un'osservazione personale, Fini non è nuovo a tradimenti, ha tradito prima il popolo post-fascista della MSI, poi ha tradito il popolo di AN e adesso sta tradendo il popolo del PDL, non è nuovo a questi giochi. E che naturalmente, se applichiamo però la categoria, lo dico con un punta di sorriso, Alessandro Sallusti, a qualunque evoluzione del pensiero politico, beh, non so in Italia chi si può salvare, ma nella politica in generale. Quanto poi, mi limito a dire da giornalista, al testo sulle intercettazioni, lì in particolare se si parla con l'onorevole Bongiorno, che insomma era come esponente anche di punta della Commissione Giustizia di un ordinamento del Parlamento, su questo ha sempre detto no, io agli organi di partito non mi interessa, ma nell'attività parlamentare non ho mai nascosto di nutrire nei confronti del testo che ha la vasta impronta del collega Ghedini numerose e serie obiezioni. E qui naturalmente però l'impostazione di un testo come quello è più politica, come a tutti gli effetti sembra anche a me, o poi sono le obiezioni tecniche quelle che poi acquisiscono al punto decisivo anche il rilievo di cosa politica, se poi diventano problemi costituzionalmente insuperabili e quel testo diventa, invece che un banco, una prova di forza, diventa poi una secca in cui ci si incastra con la prua? Buona domanda. Allora, sentiamo ancora Flavia Perina, però sul nocciolo del ragionamento di Sallusti, obiezioni, osservazioni? No, una rapidissima diciamo correzione sui fatti. Il testo delle intercettazioni non è stato mai portato in direzione, era stata promessa una riunione della direzione anche su questo tema che non si è mai svolta. È stata portata in un organo molto più ristretto, che è l'esecutivo politico del PDL. Il testo è stato praticamente consegnato 10 minuti prima, era stato chiesto di leggerlo in anticipo per fare delle valutazioni approfondite, è stato consegnato 10 minuti prima e valutato sulla base, insomma, di una serie di impegni verbali presi. Cioè si è spiegato di che cosa si trattava e c'è stato una sorta di assenso di massima sulle indicazioni, ma il testo nei suoi dettagli è stato praticamente valutato tecnicamente soltanto dopo. Dopodiché si è deciso di porre la fiducia al Senato, cosa che non era stata assolutamente ventilata in quella riunione, con una accelerazione difficilmente comprensibile, ma questo insomma attiene ai piccoli dettagli che magari neanche interessano gli ascoltatori. Sta di fatto, ecco, sulla categoria del tradimento io penso che bisogna essere chiari. Qua il vero tradimento, che a mio giudizio è fuori da ogni spirito di polemica, si profila, è il tradimento del progetto originario del PDL, che era quello di un grande partito liberale di massa, vivace, un partito della libertà, dove fosse possibile appunto confrontare culture politiche, provenienze, sensibilità, progetti anche differenti, cercando sintesi alte nell'interesse del paese, mentre invece si è arrivati da questo grande progetto nell'arco di un anno all'idea che chi elabora una posizione differente su alcuni temi debba essere cacciato, espulso. Io ho letto oggi sui giornali addirittura che insomma si sta architettando, alambicando sui modi per cacciare i Fignani, mandandogli manifestanti coi fischietti sotto le finestre, insomma cose veramente che non credo dovrebbero appartenere alla cultura di un partito come lo abbiamo immaginato un anno fa quando lo fondammo a congresso. Ma ha un senso immaginare o sono forzature giornalistiche tanto per andare avanti quando ci sono le ipotesi dialettiche di rottura sempre più probabili, ci si immagina sempre uno scenario più avanzato che bisogna pur campare scrivendo, ma detto questo invece è qualcosa di concreto davvero l'ipotesi della separazione? Ha ragione chi pensa che a quel punto, poiché i numeri al Senato difficilmente fanno immaginare, se i numeri sono quelli che sappiamo, degli sostenitori di Fini al Senato, è difficile immaginare che la maggioranza resti intatta. Allora, in quell'ipotesi, che cosa avviene di una ipotesi di separazione traumatica sugli effetti della maggioranza e del centrodestra? E questo, allora, secondo aspetto, posso chiedere al direttore del Secolo quello che conta di più, perché si può pensare a sviluppi politici che già da subito mettono Berlusconi in qualche misura come se fosse un'esperienza passata dopo 16 anni in questa legislatura senza aspettare nuove elezioni, e questo è un po' il particolare che fa friggere, oppure c'è olio di troppo, in realtà di qua la separazione ce ne vuole ancora? Ma guardi, noi c'è un punto fermo di tutti i nostri discorsi, che è uno solo: la lealtà a quelle che sono state le indicazioni dell'elettorato, e questo è una cosa importante. Insomma, noi siamo stati e siamo sostenitori del bipolarismo proprio come un sistema che dà valore alle scelte dell'elettorato, che quindi devono essere rispettate. E l'altra notazione riguarda l'assunzione di responsabilità che ha fatto Berlusconi sabato scorso, ha detto che pensi mi, e diciamo, secondo me tutto ciò che si mette nel dibattito in questi giorni un po' per star l'acqua nel mortaio, perché qua è Berlusconi che deve dare le soluzioni, no? Se ne è assunto la responsabilità, giustamente, è dal 22 aprile che questi problemi sono sul tappeto, a questi si è aggiunto un problema importante come quello della legalità, e credo che, diciamo, al di là del dovere appunto dei giornalisti di riempire i giornali, aspettiamo di vedere che cosa si concretizza nella relazione con Fini, questo che pensi me. Allora, il direttore del Secolo e parlamentare dice coerenza al mandato degli elettori, il che significa anche coerenza al fatto che lì c'è un premier indicato in qualche misura, anzi in maniera implicita, malgrado che ha il dovere di governare, Sallusti invece, una cosa che non ho capito, lo dico da lettore del giornale, l'invito esplicito a risolvere, a che Berlusconi risolva con la forza, con la decisione, ieri era esplicito, cioè non dare retta alle colombe, caro Silvio, implica che il problema si può risolvere senza mettere in discussione la maggioranza, immagino, oppure andando alle elezioni? No, io credo che sono d'accordo con la collega Perina, bisogna essere coerenti rispetto al mandato elettorale, e se questa maggioranza non è più in grado di mettere in pratica il programma elettorale, non è più in grado di garantire al Paese l'efficienza nella governabilità e nel progetto di riforme, c'è una sola strada, non ne vedo altre, è la strada di tornare al voto, di ridire agli elettori, ditemi voi cosa volete fare. Credo che sia la strada maestra, perché credo sia, come dire, tempo perso cercare di governare con un senatore, due senatori, sette senatori, non è un problema di numeri, è un problema di contenuti. La gente ha avuto, gli elettori hanno avuto fiducia nel progetto PDL, il progetto PDL si dimostra inefficiente quantomeno, e quindi bisogna tornare alle urne, che è l'unica cosa che Fini non vuole fare e che è terrorizzato di fare, perché sa benissimo di non avere i numeri per reggere un confronto elettorale. Chiamando la pubblicità, ti interrompo perché poi ti restituisco subito, però invitando a riflettere, certo è un nome grosso da pronunciare, ma non so se solo Fini non le voglia, sempre che non le voglia, perché che il Quirinale le dia poi a quel punto elezioni e non invochi la natura che resta parlamentare della nostra forma di governo, e quindi che non dia incarichi di altro tipo, beh, questo mi pare un'ipotesi tutta da verificare, quindi nel frattempo ci riflettiamo. Pubblicità. Allora, Gianfranco Fini, traditore o salvatore, avevo interrotto Sallusti, Alessandro Sallusti, il condirettore del giornale, aveva detto elezioni che sono l'ultima cosa che Fini vuole, avevo detto sì, forse però Quirinale che poi proprio le dia. Tu che dici, Sallusti? Sì, ma come dire, il progetto di Fini è quello, cioè di scalzare Berlusconi non attraverso una conta che saprebbe di perdere, ma attraverso degli intrighi di palazzo, e quindi anche sui giornali di stamattina, li hai letti anche tu, li hai letti i titoli degli ascoltatori, rispunta questa che è la grande, secondo me la più grande bufala di questo paese, il terzo polo, il famoso terzo polo, che è una cosa che non ha né capo né coda. Perina, vabbè, la cosa del terzo polo, allora un secondo, perché sul punto del terzo polo, perché c'è il Corriere che si diverte oggi, ma il direttore del Secolo l'ha letto, nel distinguere i finiani che sono, sarebbero, ci sarebbero quelli per la riconciliazione come Urso e Viespoli, ci sarebbero quelli della separazione consensuale come Granata e Brigudo, ci sarebbero quelli aperti all'ipotesi, appunto, che al Corriere piace un po', visto che ci fa poi tre titoli sopra, del terzo polo, di cui uno è proprio il direttore del Secolo insieme a Italo Bocchino. Che dice il direttore del Secolo? Esiste questa ipotesi concreta? No, io volevo prima, diciamo, mi colpiscono sempre queste affermazioni come quella che ha fatto prima Sallusti, se Berlusconi non è più in grado di mantenere il programma elettorale, e su questo ritengo anche un po' doveroso un minimo di approfondimento, ma perché non è in grado di mantenere il programma elettorale? Ma che è colpa di Fini? Non so, il caso Brancher, il caso Scriola, lo scontro con Tremonti, i problemi che la Lega pone sul federalismo che è difficile realizzare in una crisi europea, oppure la questione Bertolaso, cioè io non ci vedo una queste sono le difficoltà vere che il governo ha dovuto affrontare negli ultimi tre mesi, compiendo, ecco, l'ultimo in questo caso di Brancher, anche delle autentiche sciocchezze. E non si spiega per quale motivo Fini ostacolerebbe la governabilità del paese, posto che alla Camera e in Senato non si è mai avuto un voto in dissonanza, non c'è stata una circostanza in cui la maggioranza è andata sotto per il voto dei finiani. Si è cercato di fare elaborazione politica, migliorare i provvedimenti, correggere le cose, ma senza mai mettere in difficoltà quelle che erano le scelte importanti del governo. Io voglio capire per quale motivo dovrebbe esserci un problema di governabilità legato ai finiani. Berlusconi ha il dovere di governare e lo facesse, non si può trincerare dietro, secondo me, un pochino l'alibi delle prese di posizione in area finiana su determinate partite per dire io così non posso governare, insomma, perché non è che Brancher ministro l'ha fatto Fini, chiarissima l'osservazione, dice i problemi ci sono a prescindere, noi facciamo distinzioni politiche ma non siamo noi ad averli creati, non ne siamo responsabili, ma sul terzo polo insisto? Il terzo polo, diciamo, è una prospettiva che in Europa si realizza ma in sistemi molto differenti da quello italiano. In Italia quando si parla di terzo polo si ha sempre la tentazione di rifarsi a esperienze precedenti che sono le esperienze di carattere neocentrista, che secondo me non sono utili e non interessano neanche in qualche modo né il paese né l'elettorato. Qua il vero problema è quello della modernizzazione del paese. Se potesse esserci, se potesse configurarsi una cosa che nella tradizione italiana peraltro non c'è mai stata, e cioè quella di un polo con una forte caratura di modernizzazione, quello un po' che proponeva il PDL delle origini, forse potrebbe avere anche un successo tra l'elettorato, mentre invece io non credo assolutamente, appunto, a un'idea alchemica di un terzo polo fatto con gli spezzoni, diciamo, post-democristiani, insomma, raccattati un po' in giro dei tanti che si sono cimentati in questa impresa fino a oggi molto fortunata. Bene, e a questo proposito, siccome siamo arrivati a questo punto un po' topico, perché poi il Corriere della Sera un po' ci gioca, un po' ci scherza, molto fa sul serio su queste ipotesi di costruzione e decostruzioni che gli vengono un po' attribuite da anni, e un po' davvero le esercita, inutile che non conosciamo il nostro comune amico dopo tanti anni, che si chiama Paolo Mieli, e di molti altri cresciuti alla sua scuola. E a questo proposito ci ha raggiunto telefonicamente, e lo ringrazio, Andrea Romano, che è direttore di Italia Futura, insegna storia contemporanea a Tor Vergata, scrive per il Sole 24 Ore come editorialista. Italia Futura, lo ricordo a tutti, è questa fondazione che è nata anche grazie al decisivo contributo di Luca Cordero di Montezemolo, e apposta chiediamo a lui, da osservatore terzo, e perché molto è pour parler che riguarda Montezemolo, intervista ancora l'ultimo fine settimana Financial Times, grande rilievo al Financial Times, in cui la risposta ma farà politica era no, per ora no, però chiedo ad Andrea Romano di rispondere anche a lui alla domanda se è più traditore o più salvatore Fini, e in realtà che cosa può, da osservatore terzo, dal suo punto di vista, portare a tutto questo che è in atto tra Fini e Berlusconi. Ma per quanto riguarda Fini, purtroppo non ho sentito il nome della persona che è intervenuta prima di me, se vuoi ricordarmelo. Flavio Perini, direttore del Secolo. Ecco, saluta. Quindi saluto Perini e saluto naturalmente te, Oscar. Buongiorno. E ci abbiamo anche Alessandro Sallusti, che fa la parte del cattivo, cioè quello che dice il traditore. Ottimo, allora siamo protetti. Dunque, per quanto riguarda Fini, io penso, ero molto d'accordo con la Perina che sentivo poc'anzi, nel senso che è molto complicato, secondo me, accusare Fini di tradimento, nel senso che Fini mi pare che abbia soprattutto delle battaglie politiche alla luce del sole. Quello che è molto evidente è un po' la crisi politica del PDL e di Berlusconi in quanto tale. Io nella successione di eventi delle ultime settimane vedo un po' una spirale autodistruttiva del PDL. Prendo un punto, quello delle intercettazioni. Io personalmente, che sono veramente restio a firmare appelli perché mi ricordano i fronti popolari degli anni 30, però una cosa ho firmato in questi ultimi giorni. Il documento proprio diffuso dal Foglio in cui si difendeva il diritto alla privacy, no, quindi io sono molto a favore del diritto alla privacy e penso che di intercettazioni si sia abusato moltissimo in questi anni, e però non si può non vedere nel DDL governativo sulle intercettazioni una confusione di obiettivi che ha secondo me dietro di sé un vero obiettivo, quello di proteggere Berlusconi e i suoi cari o comunque i suoi accoliti da un uso delle intercettazioni che non è quello da cui siamo stati tutti intossicati, noi che leggiamo i giornali negli ultimi anni. È un obiettivo confuso che, come nel caso Brancher, anche se uno si mette nella testa di un elettore del PDL, si fa fatica a capire quale sia l'obiettivo politico di questi provvedimenti. Allora, a fronte di una crisi politica sempre più grave del PDL, dove tra l'altro questo partito ha un'enorme maggioranza in Parlamento, io non vedo davvero come si possa accusare Fini di tramare nell'ombra. Sinceramente, le battaglie che ha condotto Fini, quelli che sono legati a Fini, sono tutte battaglie trasparenti. Accusarlo di tradimento mi sembra un po' un riflesso condizionato che nasconde, diciamo, una crisi. Nel caso Brancher, per esempio, credo che il caso Brancher dietro di sé porti anche un inclinamento, una qualche crepa nella solidità politica di Tremonti, visto che qualche giorno fa abbiamo letto un'intervista di Calderoli in cui Calderoli diceva che la mena di Brancher era stata festeggiata insieme a Bossi e, se non sbaglio, insieme a Tremonti. Comunque oggi leggiamo anche di un qualche disappunto da parte di Bossi nei confronti di Tremonti. Insomma, sono varie le crepe nella maggioranza. A fronte di questo, cosa dovrebbe fare secondo me un capo di governo come Berlusconi, che ha un'enorme maggioranza e che ha anche un programma politico, come dire, rispettabilissimo? Proseguire su questo programma politico. Non vedo davvero chi glielo impedisca. Ecco, non siamo in presenza di circostanze politiche drammatiche dal punto di vista internazionale, se non una crisi economica che si dovrebbe affrontare con rigore, per carità, con una manovra del tutto indispensabile. Però non è che il governo Berlusconi nasca debole, il governo Berlusconi si è indebolito evidentemente per una debolezza strategica di questo esecutivo e da parte di chi lo guida. Aggiungo un ultimissimo elemento, visto che parliamo di successioni, terzi poli, eccetera. Silvio Berlusconi, nonostante continui a dire di essere un uomo lontano dalla politica, esercita un legittimo, un più che legittimo ruolo politico in questo paese da più di 15 anni con un grande consenso politico. Allora, se io fossi un elettore di centrodestra, sarei molto preoccupato da cosa potrebbe venire dopo Berlusconi. Un leader politico, come qualsiasi forza politica, si deve preoccupare di ciò che viene dopo di lui, e cioè di cosa, a chi lascia in dote questo enorme consenso politico che Berlusconi ha avuto la dote di raccogliere. Ecco, ad oggi, se io, te, Oscar e gli altri ospiti ci avventurassimo in una discussione su, magari, che ne so, tra 5 anni, 4 anni, 7 anni, chi sarà l'erede di questa dote politica, non sapremo davvero cosa rispondere. E questo io credo sia un ulteriore sintomo della debolezza politica che affligge questa maggioranza. Questo è un problema che nazionalmente da sempre, quello dell'indicazione degli eredi, dai tempi, voglio dire, dei meccanismi dei due consoli della Repubblica, proprio per evitare questo genere di problemi nei secoli, rimane un problema, perché poi le grandi leadership difficilmente si coniugano e si declinano con scelta di successori, se non oltre ogni soglia di tollerabilità della leadership stessa. Quindi alla domanda tra 5 anni io non avrei dubbi, conoscendo Berlusconi direi che il successore di Silvio Berlusconi tra 5 anni si chiama ancora Silvio Berlusconi, sfidando l'età, tutto. Insomma, io penso che dopo 16 anni chi abbia dubbi su questo un po' sbagli, significa che proprio si dimentica che chi sia Berlusconi. Berlusconi che costruisce gli eredi è un Berlusconi che io nella realtà non ho mai incontrato, è una fantasia. Dopodiché si può coltivare per spirito di correttezza politica, si può dire che questo, però la mia opinione è questa. La domanda secca: chi tra 5 anni secondo Silvio Berlusconi succede a Silvio Berlusconi? Io non ho nessun dubbio, Berlusconi Silvio, ecco, se non si chiama Silvio Berlusconi. Sentiamo un po' di ascoltatori e poi torniamo a tutti i nostri ospiti per un po' di giri di opinioni definitive per rispondere al nostro interrogativo. Cominciamo con Mario da Roma. Mario da Roma, come la pensa la domanda secca, traditore o salvatore di Fini? Che risponda. Buongiorno, no, sicuramente non traditore, salvatore purtroppo sarà difficile perché non ha i numeri per poter salvare, ma sicuramente traditore no, è sempre stato, a mio modo di vedere, una persona corretta, coerente. Come diceva Sallusti, non è che io sono un elettore di destra da sempre. Sallusti diceva che ha tradito l'MSI prima, l'Alleanza Nazionale poi e adesso il PDL. Non è che tradiva, ha fatto un percorso politico, certo, discutibile, qualcuno è rimasto indietro, qualcuno non ha gradito, ma ha fatto un discorso politico coerente, non ha mai tramato dietro dietro le quinte. E traditore sicuramente no. Sono scettico sul discorso del terzo polo, perché io sono ho un'idea della democrazia anglosassone. Il terzo polo non deve esistere. Quindi, insomma, in sintesi, lei è di quelli che dice, insomma, Berlusconi e i suoi tentino di fare di utilizzare questo dissenso all'interno di un partito, strutturandolo come un partito vero, accettandolo come dissenso. Altrimenti un disastro, perché se siamo bipolaristi si rinuncia al mandato elettorale. Sentiamo Fausto da Livorno. Lei che pensa? Traditore o salvatore? Buongiorno, la dichiarazione è molto forte. Diciamo che penso che sia traditore. Penso che sia traditore da questo punto di vista. Io sono in contatto, diciamo, sono un consigliere del PDL a Livorno e quindi posso dire che tutti quelli che vengono da Alleanza Nazionale considerano Fini un traditore, per usare un termine urbano alla radio. Cioè nessuno lo considera. Ah, lei dice che è persino troppo soft il termine. È persino, no, nel senso, da quelli che vengono, io vengo da Forza Italia, però comunque sia, come si è mosso, la cartina di tornasole sono sì i vari cambiamenti che ha fatto, ma le posizioni, parlando anche con persone, se voi parlate col popolo del centrodestra, il popolo del centrodestra pensa che posizioni sull'immigrazione e posizioni non sono neanche di sinistra, sono addirittura radicali, cioè sono posizioni da partito radicale. Cioè com'è possibile? Cioè, la Perina sta facendo una difesa d'ufficio proprio, perché il popolo, la gente del centrodestra considera Fini un traditore. Va bene, questa è l'opinione di Fausto, naturalmente di parecchi anche al PDL, però insomma, che l'onorevole Perina non abbia mai nascosto come la pensa, non è che fa difese d'ufficio, sono le difese di posizioni politiche che si condividono. Sentiamo Alfredo, Alfredo da Milano, lei che pensa, traditore o salvatore? Io ho sempre grande fatica, difficoltà a accettare questi termini nella politica, perché secondo me il tradimento attiene ad altri tipi di organizzazioni, altre cose molto meno piacevoli a volte, o comunque ai partiti totalitari, tipo leninista o stalinista. Ecco, ecco, attenzione che lei nel dire appartiene ai partiti totalitari non solo, ma attenzione, perché alla leadership carismatica, che è una declinazione che noi stiamo vivendo, io non lo dico con molto minore scandalo di quanto capiti a chi pensa che sia una degenerazione, la leadership carismatica ha mandati diretti ai leader di partito e ha mandati diretti ai capi di governo scelti dagli elettori. Nella leadership carismatica il rapporto personale è un problema politico, perché se spezza quel patto diretto con gli elettori, o se ne attenta il presupposto, compromettendone la possibilità di buon esercizio, allora non siamo nella categoria della politica totalitaria, per cui come dire, nemico del popolo, ti sbatto fuori, ti faccio la purga di Mosca, ma abbiamo a che fare con una maniera per minare il fondamento del mandato carismatico, che io non considero particolarmente scandaloso, perché nella democrazia è complessa, o si semplifica anche così, o il rischio è quello di non governare mai. Quindi su questo c'è una riflessione da fare in più. Io l'ho interrotta adesso e abbiamo, ohimè, le informazioni sulla circolazione stradale, ma è perché nella parola traditore, che è molto forte, che il giornale Feltri e Salusti lanciano sapendo che è una cosa di non ritorno, per così dire, però c'è un'osservazione sulle forme attraverso cui la democrazia rappresentativa si è sviluppata per una specie di ortogenesi, perché poi non abbiamo cambiato la Costituzione in questi anni, e quindi nel dire traditore però si fa anche osservazione a un mandato carismatico, che è un punto fondamentale di come funziona per alcuni, per i più, i bipolaristi, o come non funziona per tutti quelli che dicono sì, ma la Costituzione resta un'altra, quella parlamentare, il nostro sistema politico. Con una domanda un po' violenta ci siamo posti l'interrogativo, che però è sui giornali da mesi, se Fini sia giusto considerarlo da parte di Berlusconi e del PDL un traditore oppure un salvatore, uno che poi dice semplicemente: signori, PDL qua non funziona e ci sono problemi grandi come una casa sul mandato a governare, dalla giustizia alle intercettazioni, dal caso Brancher alle polemiche sulla manovra, dalle tensioni con la Lega, Formigoni che picchia il pugno. Non c'è Gianfranco Fini che se li inventa questi problemi, ma è Silvio Berlusconi che oramai ha qualche problema di tenuta e di leadership, e quindi un po' facile che indichi me, ma in realtà questi problemi esistono. Sentiamo ancora la telefonata di un ascoltatore, anzi due rapidissime, e poi torniamo ai nostri ospiti. Cominciamo con Clara da Torino. Clara, che dice? Salvatore, traditore, come la pensa? Ho votato anche Fini, poi adesso a me piace Berlusconi tantissimo, ma Fini è un traditore da quando si è sposato con quella... No, signora, ma guardi che non c'entra niente. Vabbè, ho capito. Traditore così va... Andiamo alle elezioni, spendiamo un fracco di soldi, dovrebbe vergognarsi. Va bene, grazie. Clara, la interrompo perché è pensiero chiaro, ma qui addirittura qua ci sono giudizi personali sulle signore. Capisco che, insomma, nell'elettorato ci sono tanti umori. Noi non abbiamo nessuna pretesa che le nostre telefonate siano un sondaggio rappresentativo di nulla. Peschiamo a caso Cosimo, Cosimo da Milano. Lei come la pensa? Sì, buongiorno Giannino. Volevo... Pronto? Sì, sì, dica pure, dica pure. Allora, né uno né l'altro in sostanza, perché anche per essere traditore, il traditore è una bella negativa, una bella figura che contiene tante cose. Gianfranco Fini, io mi sono iscritto nel 75 al fronte, all'allora fronte della gioventù, è uno che non ha mai vinto nulla, nulla, per la sua presunta leadership che non ha, perché noi ci facciamo affascinare dall'eloquio, ma leadership zero. Lui è sempre stato eletto, ha sempre vinto un qualche cosa, l'ha sempre messo in posizione di potere grazie alle sue giuste losche tramettine dietro, si attacca un po' da mi pare che lei, insomma, storicamente non sia un grande sostenitore di Fini. Nella maniera più assoluta, ecco. Non perché andavamo insieme davanti alla tomba Mussolini a fare il saluto romano e poi in Israele a fare dell'altro. Nella vita ognuno cambia, certo. Può anche evolvere il pensiero, non è quello. È che ribadisco, non ha in realtà lui, da quando è diventato segretario del Fronte della Gioventù... Perfetto, ma invece che pensare al passato, oggi lei ha detto, insomma, no, nessuna delle due, ma dovesse in sintesi, proprio in pochissime parole, dirci il problema che pone, esiste nel PDL che non funziona e nella leadership di Berlusconi logorata? Ma oppure... Sì, ma esiste... È naturale che esista, lui come sempre si limita all'ovvietà, no? Sono d'accordissimo, esistono questi problemi, sono assolutamente ovvi. Quindi insomma, il suo consiglio conclusivo, non prendetelo troppo sul serio. Assolutamente no. Oh, carissimo Cosimo, meglio economizzare le parole. Sentiamo, allora, ricominciamo da Sallusti. C'è una parte del centrodestra che non ne ha molta stima, ma dice, ma perché dobbiamo farne per forza un problema? Un'altra parte che usa termini durissimi e molto probabilmente vorrebbe le elezioni. Però se poi queste elezioni si chiedono e poi non si ottengono, non è che Berlusconi si indebolisce ancora di più e Fini diventa ancora di più poi la sintesi di tutto ciò che sperano gli anti-berlusconiani? Ma sì, questo è possibile, ma la politica è anche un azzardo, bisogna, quando si entra in un cul-de-sac bisogna trovare il modo di uscire, il modo può funzionare, ma non è che in nome del rischio per evitare un rischio si sta fermi, certo. Si sta fermi. Io volevo dire due cose velocissime. La prima è che ho sentito delle cose completamente inesatte quando la Perina dice no, ma questa maggioranza ha il problema di Brancher, ha il problema di Scajola, ma quelli non sono mica, non fanno parte del programma politico, del programma di governo, del programma elettorale, sono degli incidenti di percorso più o meno spiacevoli che una maggioranza affronta durante la sua esistenza. Mentre Fini pone i problemi sul programma. Mentre invece le intercettazioni sono nel programma del governo, la riforma delle intercettazioni. Allora, mettere sullo stesso piano un incidente di percorso o l'ostracismo a mettere in pratica il programma elettorale lo trovo molto, molto scorretto e non è quello il problema. La seconda cosa è che è vero che in un partito bisogna discutere, ma poi ci vuole un momento di sintesi che per sua natura è affidato alla leadership, cioè si discuta pure all'infinito, ma alla fine qualcuno deve decidere. Impedire a Berlusconi di fare la sintesi del dibattito interno è tradire l'alleanza, perché metti pure che si discute per 6 anni sull'intercettazione, alla fine qualcuno dovrà trarne la sintesi. Ecco, il gioco che sta facendo Fini è quello di impedire a Berlusconi, che è il leader eletto di questo di questa maggioranza, di questo partito, di fare di volta in volta il punto di sintesi delle varie anime interne. Vorrebbe farlo Fini, è ovvio, ma il problema è che non ha i numeri. Bene, bene, diamo il minuto conclusivo anche a Perina e poi il minuto conclusivo anche a Romano, perché voglio poi da lui una previsione. Onorevole Perina, ha sentito Sallusti, dice insomma la sintesi non si può negare a Berlusconi. E dopodiché la sintesi bisogna un po' uniformarsi dopo no, che si è discusso. Sicuramente la sintesi non si può negare, ma quando sui dettagli di un provvedimento, perché è vero, questo tipo di riforma era nel programma del PDL, ma mica c'era scritto nel programma del PDL che non si potessero mettere microspie nelle automobili delle mogli dei boss mafiosi, insomma. Quando uno deve tirare la sintesi deve, io credo, tener conto di una pluralità di opinioni che in questo caso vanno dalle forze di polizia, dal presidente della commissione speciale sui rifiuti Pecorella, che è un amico anche di Berlusconi, al procuratore antimafia Grasso, al Presidente della Repubblica, al Presidente della Camera, una vasta, cioè, le sintesi vanno fatte ascoltando e non incaponendosi e trasformando in una questione ideologica alcuni punti assolutamente correggibili di una legge irrilevanti sul tema della privacy, perché io non credo che a questo governo interessi tutelare la privacy dei mafiosi, ad esempio. Comunque mi interessava moltissimo a me invece il discorso posto da Alfredo da Milano sul tema della leadership carismatica. Sì. Lui ha accostato questo tema a quello, insomma, di un modello totalitario stalinista. Sì. Io do ragione alle sue osservazioni sul fatto che le leadership carismatiche dipendono anche da quella che è una sorta di relazione di fiducia personale, ma in tutta Europa esistono leadership carismatiche e in tutta Europa il dibattito interno ai grandi partiti, in Germania, in Inghilterra, avviene con altre modalità. Non viene accusato di tradimento l'esponente politico, il dirigente politico che pone delle questioni. Vabbè, io ho l'obbligo di dire, per esempio, che nella tradizione francese addirittura non è che si fa il tradimento, si organizzano trappole e finiscono vite politiche per il dissenso ai leader. È stato così nella sciracchia, è stato prima così nella tradizione gallista. Temo di capire che resti così anche sotto Sarkozy. Quindi è vero, ma con delle eccezioni pesantissime, ecco, cioè. Questo lo dico perché altrimenti pensiamo solo che siamo l'anomalia italiana. Diciamo che quando si tratta di leadership carismatica esistono tradizioni taglienti, ecco, taglienti, tanto che talvolta si usano i dossier. Io lo dico perché capita nella storia dell'Occidente e della Francia soprattutto. L'ultima domanda che faccio a questo punto ad Andrea Romano è: come ti aspetti gli sviluppi, che andiamo avanti così 3 anni? Ma tu ci credi che andiamo avanti così 3 anni? No, sinceramente no, perché mi pare che Berlusconi non riesca a portare granché di quello che vuole fare, e quello che vuole fare, ripeto, non è esattamente il programma che gli elettori del PDL hanno votato, ma sono fondamentalmente i fatti suoi. Siccome non riuscirà a portarla a casa, credo che, conoscendo Berlusconi come lo conosciamo in tanti, proverà a rilanciare la posta, e quindi è molto probabile che, pensando che il Quirinale sia la soluzione per tutti i suoi problemi, ci riporti al voto di qui ad un anno, forzando la situazione e chiedendo un altro prova di fiducia al suo elettorato. Non sarebbe un buon esito per il paese, perché, ripeto, dalle ultime elezioni è uscita una maggioranza chiara, che aveva un mandato chiaro e che avrebbe voluto fare cose anche importanti per il paese che non sono state fatte. Probabilmente ci aspettano elezioni. Aggiungo a questo che anche la Lega è in crisi quasi per eccesso di consenso, nel senso che ha un fortissimo consenso. Diciamo che molti la vorrebbero una crisi come quella della Lega, con tutti quei voti recenti, ecco. Appunto, hanno un eccesso di consenso, che però, se guardiamo al federalismo, nonostante gli ultimi passi del governo, però non mi pare che il federalismo sia alle porte, la Lega, che ha un elettorato molto motivato e molto, come dire, che richiede poi risultati in tempi anche brevi, potrebbe anche avere un interesse della Lega a tornare al voto. Insomma, va bene, allora anche Andrea Romano in realtà annette un'elevata possibilità, non dico probabilità, al fatto che si torni al voto entro un anno. A me la questione definitiva, io dico, non rispondo a traditore o salvatore, dico semplicemente che è il PDL che evidentemente funziona poco. E allora, quando un partito potenzialmente maggioritario nasce e non funziona, o chi lo ha fatto nascere lo corregge a costo anche di colpi radicali, o altrimenti i progetti che non galleggiano e che non sono capaci di navigare inevitabilmente affondano. Ecco, questa credo che sia la mia opinione. In sintesi, io ringrazio Alessandro Sallusti, Flavia Perina, Andrea Romano, tutti voi ascoltatori, Carmelo Lauricella, come sempre molto paziente in regia che non mi sfuma, e Alessandro Marco Tulli in redazione. Linea al Generale Radio, appuntamento a domani.